Beppi Nostro, santo di tutti, Giuseppe Sarto, San Pio X, di cui ricorre l'esatto centenario dalla morte il prossimo 20 di agosto. Il consueto spazio settimanale a lui dedicato, vi segnala tra poco alcuni appuntamenti nel prossimo periodo, in particolare fra circa un mese, quando inizierà la Quaresima. Ricordiamo che San Pio X è stato l'unico papa canonizzato nel corso del XX secolo. Tra pochi mesi, tra poche settimane ormai, il 27 di aprile, ci saranno altri due pontefici del XX secolo che saranno canonizzati, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Segnalo alcuni aspetti per cui anche Venezia, con il Centro Culturale Laguna, ha promosso un ampio progetto, oltre a quello che è stato organizzato dalla Diocesi di Treviso con il Comitato Scientifico per il Centenario. La parte veneziana, appunto, delle iniziative per il centenario della morte di San Pio X è riferita in particolare ai 9 anni, quando è stato patriarca di Venezia. Venezia che è sempre stata nel cuore, nella mente di Giuseppe Sarto. Nel suo tempo libero, in forma privata, visitava infatti le isole della Laguna, in particolare a Burano, al centro della sua attenzione e sensibilità nei confronti degli umili. Infatti era un periodo di grave crisi economica, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, egli rilanciò la scuola del Merletto e diede lavoro a 400 ragazze. Il 12 gennaio 1898 il patriarca Sarto inviò una circolare ai sacerdoti per suggerire l'acquisto dei pregevoli manufatti realizzati dalle merlettaie di Burano. Sempre a Venezia, da patriarca, Giuseppe Sarto promosse l'istituzione del Banco San Marco e potenziò le società di mutuo soccorso a Marghera. Istituì anche forme di assicurazione contro le malattie e di assistenza agli operai e agli emigranti. Lui aveva visto tanti suoi compaesani e comparrocchiani partire, sia dal Trevigiano, poi dal Mantovano, prima di arrivare appunto al patriarcato di Venezia. Lo sport, già se ne è parlato in occasione delle Olimpiadi del 2012 e in vista anche delle Olimpiadi invernali. Mens sana in corpore sano, dice l'antico adagio, e lui incoraggiò l'iniziativa dei giochi olimpici, che furono ripristinati proprio all'inizio del Novecento dal barone Pierre de Coubertin. Sempre a Venezia fu istituita, per volontà di Pio X, l'unica facoltà di diritto canonico fuori Roma, facoltà internazionale frequentata da studenti provenienti da tutto il mondo, come tutt'oggi succede e che ad oggi è a lui intitolata. L'emigrazione l'abbiamo già citata, istituì l'ufficio speciale per l'emigrazione e da lì nacque il Pontificio Consiglio per i migranti e gli itineranti. Per sua iniziativa, poi, anche se lui non ne vide la prima celebrazione, nacque la giornata per il migrante e il rifugiato. Fece convergere a Venezia enti e associazioni venete sparse nel mondo. Pensiamo alle associazioni appunto degli emigrati. La musica, Pio X fu anche compositore, scrisse canti polifonici ispirati a canti gregoriani. A Mantova conobbe Lorenzo Perosi, che gli fece apprezzare l'opera di ricerca scientifica sulla comparazione dei codici musicali e l'interpretazione del canto primordiale della Chiesa da parte dei monaci di Solesme. Il maestro Perosi seguì Giuseppe Sarto durante il patriarcato a Venezia, diventando direttore della cappella della Basilica di San Marco e fu anche nominato del maestro della Cappella Pontificia Sistina a Roma. Venezia è al centro poi di diverse iniziative per volontà di Giuseppe Sarto, con la partecipazione di giovani musicisti. Sostenne poi nuovi orientamenti dell'arte sacra in Italia. La sua devozione mariana lo portò a incoronare e benedire alcune immagini e statue dedicate alla Madonna in santuari mariani del Veneto. Citiamo Caorle, Monteberico, il Monte Grappa, la celeberrima la sua salita in groppa ad un mulo, e poi la sua Riese con le Cendrole. inaugurò nei Giardini Vaticani il 29 marzo 1905 una cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, a cui era devoto, e nel 1910 proclamò la Madonna di Guadalupe patrona dell'America Latina. È anche stato proclamato patrono dell'Unità, sì, legata evidentemente alla vicenda di Lourdes. Queste dunque alcune motivazioni del ricco programma promosso dal Centro Culturale Laguna di Venezia. Il prossimo evento in programma sarà all'inizio di marzo, ma avremo modo di ricordarlo anche più avanti. Ricordiamo che la Diocesi di Treviso organizza il pellegrinaggio diocesano a Roma dall'8 al 10 settembre con l'udienza di Papa Francesco. Per informazioni e iscrizioni l'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi in Casa Toniolo a Treviso, via Longhin, risponde al numero 0422 576 882, la mail past.pellegr@diocesitv.it. Fra circa un mese la Quaresima e ci saranno una serie di pellegrinaggi promossi dal Comitato Diocesano di Treviso nei luoghi di San Pio X. Ad esempio, nella prima domenica di Quaresima, il 9 marzo, l'appuntamento è la chiesa parrocchiale di Rese alle 15.30 con la celebrazione dei Vespri e la venerazione della reliquia, la possibilità di visita alla Casa Natale, al museo della parrocchia, al museo della Fondazione Giuseppe Sarto. Il sabato precedente, l'8 marzo, concerto spirituale alle 20.45, sempre a Rese, per voce e organo. Verso il XX secolo, il canto solistico sacro nel contesto europeo. E poi le altre iniziative si sposteranno proprio nelle città e nei luoghi, nei paesi di San Pio X, Tombolo, dove fu cappellano, Salzano e poi in cattedrale a Treviso, ma anche nel Duomo di Castelfranco, legato sempre alla storia e alla vita di San Pio X, per culminare poi il 20 agosto 2014, quest'anno, alle 20.30 con la celebrazione eucaristica diocesana nella solennità liturgica a lui dedicata.